nuda, non avevo preso nuda, nuda, ha scontrato la capocciata sul muro, proprio. Ma quale problema, ma il presidente ha fatto una domanda specifica, ha fatto una domanda, TV1, TV2, alimentatore, ha fatto una domanda. Alimentatore con due abbessita, con una linea di antenista ha fatto una domanda precisa e te l'ha portato una risposta precisa. E te vintra un alimentatore, TV1, TV2, ma neanche se bestemmi, e te vintra. Da presente che si chiama un alimentatore di copertura ancora di coppia. Ma Tore, no, sono compreso un cazzo, intanto, come te lo dovrei spiegare? Inutile che non ha compreso proprio nulla, nulla a me, nulla, un affanculo ha compreso, ma proprio un affanculo, le sebessine con queste stupidaggine, poi un alimentatore con due bessita, che poi tra parentesi alimentatore sbava, tu condensatore di disaccoppiamento, no? Tra parentesi, sicuramente non ha compreso e ti chiedi di intendere isso, è inutile che tu ne sia bisogno di un alimentatore, e te cacchio vintra da alimentatore come, con questa bessita, siamo compresi, che vado alimentatore si ha fatto bessita, e te cazzo entra un partitore da palo. Antone, fai che lo fai adesso. Subito a bici desalimentatore, poi bici desalimentatore, santo me. Pone di lui, pone lo in serie. Senti, ti ha ripiegato, cazzo! Ma a te, allora, a uno quando da fare un'installazione, non te ne serve di impostare tanto televisore Zuni, e tu condominio viene appunto in manta della televisione, e te di auro vintra sul televisore che deve vivere, non vintra nulla, ha fatto una domanda precisa, e il suo avanti, la risposta precisa, e paccava, se segue così ferma funziona, se non segue così ferma, segnale, no, vintra rifi. Ma no, non c'entra nulla. Non c'entra nulla come un bene si vuole salimentare per un due a Bessina con tre e con quattro. Non c'entra un corro bruciato. Non c'entra nulla, compreso. Non fetta sui telloni, questo socio bacio, tutto bello. Vintra su Vicente 2 contro la linea 7 Sidasa, non vintra nulla, nulla, cosa andrà bene, lo fa grazie a Franticina che è quasi morta, che le pone su un piccolo evulso e ne fa la contro a Bessina, ne fa capire, una sa che è modella, una sa che è morta, compreso, e vedete che le fa che su fondare la linea come su un film pornografico, ma il te se l'ende, il te se provoca, lascia perdere, non compitosi impiantistica, lasci stare Tore, lasci stare! Un amplificatore comune. Già va, beh. Sì, benissimo, e tanto? Beh, tanto. Buonanotte, su che vedo soffi, su che... No, ma non male di pure, che ti significa questa domanda, gli asile, non sidere? Sì, ma tu hai visto poi ti entra però il vuoi primo? Mi deve sempre fare un travaglio, Antonè. Stando, adesso per prendere su buco in 9. Mi deve sempre fare lui cala, che io sto ad un carrello con un cuscinetto, no? Quando mi devo chiedere il 9, sicuramente mi attacca la musica, che mi si porta ad ingrassare, che hai chiesto, bruciando il mio occhio veloce quando intendo questa cosa. Sì, no, mi sono una morte istantanea, compreso, cade ogni occhio, no? Cioè mi devo chiedere, no? Non male più di tipi fare, no? Oramai sono magones che sono e che restano. No, ma non ti preoccupi, cioè, figura, ti compreso, no? Ah, vai, da quando deve fare che questo finale di potenza, giù che quando mu sua, no? Giura il numero suo e gli fa che sappiate che lo finisce sul gruppo della valvola, no? O se tu che fa che la transistor non è ancora più bene, perché facciamo che se e lui fa che se lucidare già due fermici adesso. Poi gli fa che se fa che tutto quanto sul gruppo è su greco, già lì adesso come te lo modificare. Movimento di chiesa da Gaia appena. Poi, oro mio, mamma mia, te l'ha ponato l'uomo che a Hitler inventò il motto perpetuo. No, ma avevo che giusto sente, non vedo solo, no? E? No, e se no, solo non pienso, manca appena. Si ciampa britannica, compreso tutti gli infermieri di Ida, poi tesinare da fatto revisionare a residuo, capite se vuoi, ma che errore naturalmente, deve correre in tribù. No, devo, si ciampa britannica, e lo sapibi si che volimo tutto, poi c'è una cosa che è tutto, no? Ui, compreso. Un'altra cosa, su pane desamorata tua, non credo che li c'è vedere. Ponela una ala, fagli una cuccia in polesterolo, o si chiede all'umere. cosa compreso, ti ha fatto una domanda specifica, ripeta su chi era sa gente non la potesi limitare, ma di ponzo tu abbessita a sindacare sese, e i sastra non di canaponi, si sono su e su culo? E il socio è su culo su partitore. Mancante. La mia cazzo, ha comandato di una cusatera. Mi cavallate, siamo in un condominio. Poveretto, là là. Ui, gurumi. No, una via c'ha poco uscita, Antonea. C'ha poco uscita in Uri, no? Noi così ci siamo fatti in marcia, cosa che chiesi verso Cuba. C'è poco uscio, io fui in una domo a 200 metri, no? E mi chiamava improvvisamente in SOS. Io pensavo, fossi, siccome ti fui in pensione, una buona, siamo un po' subito se l'ho bloccata. Sai che io abbiamo avuto un butto abbastanza profondo e una pompa del trettone, questo particolare, un uguale comando allucinante. Proprio per controllare se la corrente del suo motore, tutto quanto, me l'ha incallato te che hanno primo. Ma va, che problema, va. No, lui ne guarda invece e mi presenta là, un impianto elettrico così questa discesa di soffitta Sant'Enna fatto in cascata, no? Ma io uno passai da Sartre, mi dice, su, ma si via gai sul segnale, e sai io sono bindaiala, e gli elettricisti hanno raiala, ma voi te lo bindara, siete tutto un filo, un presento me. Una ragliata, ma voi te, e baglia, non devo essere alimentato perché ne sono lettori sopra, no? Bindaia, uno con una colonna, e uno con un'altra colonna, e comincia a ghiara, ma la IT non funziona, si è tutto un filo, a me mi ne ragliagai, no? Ma la IT non funziona, si è tutto un filo, e apponato, no, ma l'ha fatto benissimo, bello, no, ma sannare che ha fatto male, no? No, apponato, assolutamente. Ma non solo un problema e non ti deve arrabbiare. Ma che it? Non si denuncia. Ah, sono un filo, quindi che problema, va. Ma figurati. Tanto mica sono andato, poi mi ha telefonato pure una chita, perché si invece bene ciuffato, bene floriato, bene, bene pentito, che si apposta sulla faccia di questo benuccio si scusale. E improvvisamente mi chiama da suo proprietario, naturale, no? E io che sono andato a Sant'Enna e sa prima cosa, ha poi misurato il segnale d'antenna a bisaretti di livello vuoti. E ha ponato il segnale già che andava, così c'è una zona bassa, ma il 9. E tanto la prima cosa che ha fatto ne sono parlato diretto, no? Voleva che la bisere sino a tenere su del coder digitale. E lui l'ha fatto la domanda, giusta se le tre cicche l'hanno dato, ma che commenta mai? Nacchi, Falenne, un filosofo di Sant'Enna, si vede in tutto il suo canale, se... E quando due collega su impianto cosa ha fatto lui non si vede nulla, l'hanno dato Giampoldo. È la radice di tutti i mali, ignoranza. E tanto Giovanni si è alleato tutto quanto da Santa Pascenzia, che si imbecilla e ha fatto l'impianto in una guaina e si è nato dei pintichimbe, chissà chi è cazzo che l'ha nata con questa guaina di pintichimbe, da solo che te la pone in disegno, no? Chissà come l'acqua, magari la IA l'ha compreso, le due avanzate fanno che la possa, compreso, giustamente, non che li ha comprato tra guaina, è successo sicuramente che dunque, la piccola interra rotto, è capovalato, io siamo a stessi guai, la cantafoni, il matto di scesa, cap- sono incasciato, sono partito reso, ho provato mattolo a destra e mattolo a sinistra, otto paladas, compreso, con questo virus fine fine, mi gusto, questo che sta appena virus più fine di una sigaretta, ecco, mi sono parlato un cuscio, ho ingrassato sul capo, me lo sono appoderato, lo sono appallineato, lo so, potevo modificare tutto, si è preso, che allora si è preso a passante, se vuoi non craffurriare, a voi sono negoziante, non devi a cambiare tra parentesi, no, stanno a potifidone, non è stato rinforzato, ogni presa, compreso, nulla, a forza prima provocare, poi la sua porta diretta, addirittura, dai suoi partitori, fa la via direttamente, ad ogni presa già pronta, disaccoppiata, poi è una bella via, di travaglio, quasi una dieta di travaglio, abito in ogni presa, abito correttamente sul canale, compreso. Come tu quanto se lo fa che devo mettere filo? Tu quanto se lo fa che è in 80 metri di filo? Ma il suo problema non è solo uso, è che in pratica ti succede che quando devi tirare sul filo se non va la guaina già pronta, sa? Chi si impiantano il diffuso dai suoi partitori ad ogni televisione, niente ti succede a te, una cosa sola, ti succede che con un filo circo delle gare, prima la attenuazione passante e poi la attenuazione per disaccoppiamento. Poi si somma, li vuole essere un casino, si sa passante, se la cucciata, batte, batte trotto, batte due, batte sei, e batte finti, batte venti, batte, sempre gai, non preso, battero. E ne fanno tutto un fumo, segnale, poi invece disaccoppiamento, poi per sapere su capo, per sapere da dei commenti pili, segnale, tutto un casino. Chi sotto il grazie a lei da bin a me da televisione. Bin a me di voi sotto il dei pini, compreso. Bin a me di suo impianto non chi fa che a me mi vede immediatamente 20 presa televisiva, sa. E che è il suo segnale perfetto, no, non ti chiede se si incazzano voi, se non è come tenere la missa, so. Si incazzano maledettamente, compreso. E sono segnato che sono equilibrato, qualche cosa in qualche impianto dice segnale ti fa che su all'audio e ti cura tutta conca, per amplificatore, antenna, ti lega sotto capo, intuio ti affogala, se non fa tu bene. Poi ti cura del fardello e ti cura fuori d'uomo. Massimo se tu vieni di poter fare un nuovo aereo, compreso, che è un amico, ti chiede di ripammiare e posso di dare il migliore delle tacche in bicchiere, un paragone che ti fa attendere. Tanto in più se non ti puoi fare che su che deve serrare un uso, in senso se si è fatto un casino. Compri il condivisore, quello che controlla tutto, quello che sappa di terra, quello che sappa di garri, quello che sappa di tutto, compreso. Dai, sapete, c'è un atto, noi se che tu in un soffitto collegato alla televisione, vuole fare su che è una televisione. Due a Savuro, come sono tutti due, le buone si alimentatori, tu abbessita, se l'alimenta su Mattesi. Ma non può essere fare un impianto, vai, chi cade a regionare, una bada, il catto, la derivazione, chi entra in questa città la derivazione, che deve fare un impianto, questa città la deve avere nello stesso modo, su partitore deve essere fissata, si interno un batto tassello, deve essere tutto quanto a forte connettore SF, poi su partitore si lascia modificato due, deve esistere il segnale farà da giosso, il barrifidi, canto metro della cubata, come in testa, il zona S, il pretese esata sul proprietario, il TDV, tutto amplica la IQS e io questo si dice fatta a track. Sì, ma si devono Antonello, no? Elinaro Antonello, Antonello, fai che su piacere. Fagemi una ringhiera e su una demo te l'ha fatto, poi arrivo e bacio appunto la traversa del naro, no, non quando è la sua traversa, sa. paghi una ringhiera, io tu mi dico, ma mi piace attraversare, non vinca nulla, si ripone se tu o tu, se attraversa ne vuole una destra, una sinistra, se so se fremo, resta su Mattesi, solo che vuoi da in centro, non va nulla, però ho messo una ringhiera, dipende da lui deve andare dal suo proprietario. Il suo proprietario ti più o meno ti indica, se non ti indica Tarragno, la regione a questa conca di che l'ha fatto. Ne una di che c'è un filo elettrico ha ragionato con questa conca, devo conca, è zone che l'ha fatto 30 anni prima. E che poi risulta da mattonella suo figlio, lo so. E dopo di suo babbo ha fatto le melone, mi giusto per andare il suo nome. Ma è a Bali se Bali su bagna ancora che lo deve coprire, mi la porta non va che guainas. Ma è a Bali che ha portato suo figlio su conca e zone, che vuole sotto la mattonella, e l'ha pagattato, compreso, asato. Nara. mi ha fatto una richiesta di oltre quell'impianto bellissimo megagalattico che ha interfacciato con i macchinari, mi ha chiesto una cosa, mi ha chiesto, dice, ma fai un impianto citofonico 1, 2, 3, 4, 5, 6 citofoni intercomunicanti con chiamata davanti e dietro, quello di davanti ancora non installato comunque collegato, e dietro, quella di davanti esclude la posteriore di postazione, quella posteriore esclude l'anteriore, no? E quindi poi, no, puoi chiamare, quando tu chiami l'interno con l'interno esclude l'esterno, un impianto complessissimo BTC, no? Compresso. E lui esige il misicallatore, elettrotecnico, e a schema mancavano tutti i dettagli per il collegamento, tutti, pensa tu, manco loro ne sapevano, manco loro, e mi sono dovuto collegare l'impianto da me, perché sì, hanno loro degli impianti già pronti sugli schemi, però poi per l'esclusione della chiamata interna col collegamento esterno non c'erano alcuni input, capito? E nulla, allora chiamo ovviamente che la BTC, no, io ho detto guarda qui manca qualcosa in questo schema, proprio per non stare a perdere tempo, entri nel 5 e il ragazzo entra su Wimber, sono io da intro, sono io a Purvora, ma vai cagala, è bello un dio, da un presso, e se via può tornare invece vuoi, entrai che su Wimber e metti il fisso, dove torna su Wimber, con cagazzo, arrasta imbecille, usatelo, ma anche su Wimber, quando non voi no, mi dica, deve entrare nel 5 e colleghi direttamente all'altro numero 5 della telefonata della canale Kimbe e il suo cos'è, devo fare il tuo link. Succede anche questo, ma cioè prendi conto, oltre all'assistenza che gli faccio degli elettromedicali, TV color, LCD, non LCD, plasma, non plasma, TV di tutte le maniere, radio, boomer, malasoffese, macchinari elettronici, elettrocoagulatori, elettrostrippatori, elettrobuffer, compreso, lì ha l'impianto del pozzo con il controllo elettronico di livello, con il controllo elettronico di corrente, attento con il controllo elettronico di livello del serbatoio, con l'autostart elettronico in caso di problemi all'autostop, va bene? Poi ha tutto l'impianto d'autocravessù, poi ha tutto l'impianto del cancello elettrico con varie fotocellule sopra, ha telecomandato tutto il raggio, poi ha tutta la discesa illuminata con crepuscolari e tutto quello che ci vuole, poi ha l'impianto interno citofonico con 6 chiamate interne, chiamate esterne, la doppia facciata, poi ha tutto l'impianto collegato ai macchinari, cosa è macoso? Lo sai cosa vuol dire quello? Vuol dire l'impianto nato, ecco, i vuoi usi sanato, il sanato, il interforce, si unica questa camera, ma dove l'interruttore fa in tutto, compreso? Quelli sono quadretti, smistati, per non dire altro che ne ho fatto, che ci sono 20 camere e ci sono 40 interruttori magnetotermici con differenziali bipolari, cioè 40 interruttori magnetotermici più differenziale, per protezione ovviamente di zona, e vedi questi quadri tu raggruppati in uno stanzino apposito. Cose bestiali. Eitemi zenne zende i gruppi occultami di essi con un alimentatore antenna chi si è in cui di chi mondo salò di chi non c'è. E un ecchesese. Sugane a mostri. noi ci sentiamo. Mi dico che non si può dormire, che fa l'ara giosso a buffare. E dico tu mi fai delle sugane. Ciao Antone, già ci sentiamo, fatevi sentire più spesso così magari vediamo di mettere a punto quella roba là, sia per quanto riguarda l'alimentazione che per quel finale, vediamo un pochino, fate sentire così magari mettiamo a punto il tutto, non ci provo, già lo sai, che è una cosa ormai messa per stare, anche perché mi devi fare una cosettina con la cosa lì, di metallo, e quindi me la lavorerai tu, visto che dobbiamo fare questo lavoro qui, a modo che insomma facciamo tutto assieme, non sto lì ad andare i fieni, e quello qualcosa di più di sali scendimi, più che altro. Così magari un sabato ci siamo lì, se vogliamo anche chiamare attore, mi se viene, così magari mi dà una mano a assemblare il tutto, e niente, e ci divertiamo un po'. Caro Tove, ma cosa me lei la deve conoscere, che la campa contesso, ma cosa me lei la deve conoscere, lo dicete come tesoni, se no non massimo la citofonia, se non sei bravo, per esempio la regale, non la citofonia, se non va ficcio, come bisogna morfire, e adesso dottor Masello. Non dice se che cai, ogni cosa sa funzionare da sua, ma i trenza sa che uno che l'imbola di Google la fruscia le funziona, noi siamo cane, no? Che obbliga, mi pare questa cosa a dire, no? Questa cosa sono in un casino, sono un casino, compreso, non è che la simbola legale, ogni cosa ha sa funzionare sua, compreso. Basta, ma era appena di gente delle 7 lì poi che dovrà un attimo di seguire Sara, che non sono a pagare corrente, che è chi mi ha fatto, compreso, che era un alimentatore delle 8 per Camperes, lo pone sicuro e lo pilota benissimo, e ti pone se non viene a fare, vola a fianco, e quando un alimentatore lo gestisce bene. Devono fare, devono giocare così, compreso, fino accanto voi non lo fanno completamente serrato, soltanto se attaccano voi, tanti sanno che lo bogare, non sai che lo bogano voi, basta, le cittadine di rifiutare. Caro dottore, avremo macchine diverse in futuro. Purtroppo non ci sarà più neanche lo schermo. Non ci sarà più lo schermo, saranno immagini proiettate nel vuoto, come potrebbe essere un ologramma, o usano il sistema a trasmissione, diciamo così, olografica, oppure una cosa similare, ma sempre nel vuoto, sempre nel vuoto. Non ci sarà più uno schermo da appendere al muro. Quelle cose ci sono già e le te devono tirare fuori, i mercati si stanno aprendo e tutto un casino, compreso. Caro dottore, c'è sempre da fare, ci sono innovazioni tecnologiche che migliorano la vita delle persone, però altrettanto non si può dire per chi le assiste, che deve correre da una parte all'altra, deve aggiornarsi o soccombere. Questo è il motto del riparatore, compreso. ma vabbè, che cosa ne ha bisogno ancora? Ah, ecco, compreso. Dopo. Ripeto, prima 40 volte, si docco, la massa, la terra, su quel potenziale, usano e cambiano qui subito. Di essere bene configurata con giravo un po' la sviluppata in asso, naturalmente, che è pseudo-triodo, la configurazione, la sviluppata in asso in banda. In AM con chi mi va, te le dà subito in banda. Bello. Due mi ha dato e una sacchicina, poi mi ha dato la ritratta, di tutto da buona volontà, un amico, però non detta, in suo senso che adesso mi andava, e fammi fasciata, e con l'altro mi andava, e sono tutti fasciata, e con due circoli sono fatto 58, dove ero, due sacchicina, avremmo usato la lapponia, ne so l'inera, l'accuria, no, compresso, la sono tutto cotta, sa. Tutto fatto da una capolia e caimi una no, una è un no, già risponde a sa caratteristica le valvole fente, compreso, però un bambino mio che mi ne bocca magari un'altra la legge di questa passione, no? E nulla, è che l'incascio però usa che devo fare il a Tonino, compreso. E quindi come vedo hai sicuro a debuccare un appunto, ma che dovrebbe essere inferenza bada da una valvola di marca selezionata, una valvola di contiguità, io se c'è comunque la valvola americana, ma le ho già deciso che se sarei quella cosa americana con tutto, se la parecchia americana no, quindi deve rispondere a questa cosa da un detto. Sì, ma poi mi sono usata la via. Un ibrido appodato un ibrido, e come che un altro del DN, se che tu sei un appodato da via uno. Come mi sono fatto in un altro 600 euro, so, sempre ibrido, a base di bianca di culo mi indagherete che viene fatto come qualche cosa la procurava, compresso, mi ha un altro pronto, mi sono è già finito, nulla, questo che luogo senza altro, su matessi finali, classe H di quattivo, deghe di deghe, e sopra la valvola, con tutto il suo ingresso, bellissimo, neppure su di capfono. Sì, il transistor è pilota la sezione finale, no, non sono mosso dei transistor speciali che lavorano in classe A a carico attivo e poi vabbè che lo faccio sentire, è molto simile alla valvola del suono. Armoniche disperate ad andare, che distorce, che non mi piace che nulla. E non è per noi da compresa di questa cosa già oramai, detto, non solo già ballano questa busciacca piena, già, adesso venga tutto, però il abbonato. In nove siamo in mezzo a giungla, che sono so con cadetello, che sono la bella di fronte, a giù in sacrificio dritta, che sono rigida solamente casa cartilagine e si rigidita dalle sue macchine, con tutto il socio bascio, so duche duche, se tondo come una nappa, e ti viene. Non peso, ma questo poi mi fa bene una volta a piscina di Ostia. Non c'è una diretta, io sono venuto che bisogna cosa fai. Ma che? Ho un motore, io voglio un motore a vasacchi. Ehi, sono controllato al quarzo perfettamente, allineato, la paura non mi come trovo. È perfetto, in questo senso gira che sono in campo, non mi giù. Però, ma se non mi sono con chietta, intanto mi ha fatto un sciavolo alla fine, tra posto, come lanciare per mattina, a me non avevo di cosa. Oh, il Borromeo, compreso, come era girata, comunque, mi è stato la maglia faccia. Fatta vedere tra poco, se non posso dire, mi sono fatto tessere. Mi sono fatto tessere da posto, mi sono fatto vedere. I contatti parte, quelle lì, quegli apparecchi che scaricano, che resettano i chips delle cartucce d'inchiostro. E l'ho buscato, guardate, nuovi. Poi avevo dei piccoli pubblicini che guarda caso infilavano a pennello, compreso, molle tutto. Diciamo la polvere da fondo e se la passa leggermente vola, come in teoria comanda, non perché due, ma così, ma che negozio, guarda. So filosa, posto su un terzo, finissimo, so, ho fatto un lavaglio da particolare, compreso. Tutto bene bloccato, bene esaltato, poi la polvere da limare, sono da fanni una di gasossemi. Poi la combinazione da soppeso, la pagliata di fina, compreso. Buonanotte al cerchio, sono anche su un amore. Aspetta, io mi giro il cellulare, si forza, prima appena, inferiore e la collega da su verno in questo modo. adesso ha fatto grosso, poi l'ha fatto giocare in manutenzione, pulire, controllare internamente, grassare, fatto dopo, adesso invece l'ha controllato loro, errore della decorazione, tutto fatto, tutto perfetto. Tu ha sempre sopra amplificatore il 9 e non intende nulla, è come ti hai rifiutato, come ti che va sul disco, veramente una bomba. Buonanotte, tagliate un altro momento. Oh, i miei sensi bloccanti. Oh,

buono è almeno. Ma il supporto questo regolatore sa la temperatura? Fammi una cosa, come caso mi si dica nel maniera che punto si abbacca per capire che sono io dritto con carbotto. Ma no, mi dura che poi questa punta che sta sempre a manetta, raga. È nato che ti lappo, compra di quelle, raga. Oh, mamma mia, come niente di fido, raga. Ti cuore sono scioccato dove è tutto. Fiuccina o il Magna, il TCP, costa 110 euro, ma quell'altro WLV costa 100 euro, ma il TCP forse meglio, il Magna, quello 110 te lo compra, se sono doloroso, ma che insomma, ma una rami, due, te li auguro, l'altra per l'estate che è ancora migliore, la 18 watt, però il TCP è ideale, per te sarebbe un bombò, compreso, alle commenti andrà bene questo. Io non lascio la minima immaginazione. Chi è? Comincia sempre in braga, fumelli, quella fumallotta, tacchicina, ma compra di la nuova e compra una cosa decente. E ti casa con corso d'acqua, carrato bel soffettamente, e due, che dopo si va a dispersione, ti incendia, tutto già parecchio che tocca. Ma va che la cosa bene, ai no, la buona vai, asa questa passione, asa. E casa che rende con questo cazzo di fucato messo su. Ma mi dovevo. Uno mi ha fatto compra che già funzionano bene questo, pure questa centra di gambi su questa celeste gai, hai che teso di bomba, ti dura attento, che manca, che mi sanno. A magari che se io dessi universale volessi fare il cancello del camposanto. Pago le macchinario malevato, tutto plasticoso, rumoroso, tutto ammontonato, tutto un mondetto del televisore, mi sono pensato ora, comunque, fai da un di femmina, fai da un di mazzone, se vuoi dire, punti la sua romana. Ma... guarda, c'è benissimo, ma... come? Se io ho toccato un marziano su Mahone, l'ha provato e ti ha una valvola che si andava. Come non si intende pure un marziano, con questo, ma se vuoi si pinta, che vede questa punta, no? Il 9. E devo come so, sai che in desettere, questo silenzio che messa, compri, nella dove l'antenna, insomma, subirà, lì come intesire fumende. Che bello, che bello, che bello. quello che non mando, compreso. Terminata la prima missione di Milano, ando e mi affittano un Canadier, lo carico del Mella e che mi carico il nome del tuo cliente. Compreso. Passo su la manetta e fatto quotazione. Quotazione bellica, se la gareggiamo alle gare. Però se la gare fa Mella, è corso che mi retana. Io non sono in vita, io sono in cielo in terra dappertutto, avevo attori, usi, tutti reali, piccole tattare, saliera, ciò che vuol no, naturalmente, no, uno grande, però, ma mangio bene, già lì si è fatto curioso industriale, fatto di tutto, no, non mi interessa, già, Savagnotto c'è caso di rende, grazie a Dio, non ha problema, già, c'è assicurazione, mi lascio pagare, mi cacca, verso un altro qualche contributo, so. Piano piano, passo a passo, uno va su oe, uno va su casa, uno va su oe e uno va su casa, sempre dai, compreso. È importante che mi dica sempre da buzzone. Appena voi hanno devo mettere so sacco, mamma mia, è una cosa grazie, mi dà una intente antenna, se non mi metto è balla, è un programma, mamma mia, forse elettronico, televisione, ma io so che è una zinga. Eppure a Bairaim con questo cazzo animati, a Bairaim mi fumi contento, so come mi viene sul film pornografico, so più finello, se non sono contento di tutto. Come mi viene i film da mosse, gente che ne sa casa conca, ascia di fuoco, mitra, sambene, schifo di sambene, ma magari dai. Io poi sono sempre sera di notte, qui sul mondo, boh, chi cade il dia è notte, cade notte il dia. E stasera mi era media world per cambiare un disco, ma accusato, tocca, mi ha messo una PlayStation, a un certo punto si bloccava, l'ho rimesso 2 o 3 volte, poi mi hanno accusato che era graffiato, ho iniziato a parlare male, e ho dato una del mio colore, compreso, quando lasci stare, non si preoccupi, ho detto la locco e lei, mi ha mano in faccia, fai su stupido e lei, che vuole andare a mirare in giro. Che sono preso il lugar, invece te fuori, no? Che io sono anche graffiato, se è graffiato non prende traccia, invece lei ha sta traccia, no? Soppit l'incisione, non con l'imaia, usate in che senso, praticamente può passare da un punto di incisione a SAT, non sa numerica, su un legato, no? Legato sul senso del software, e si che hanno registrato, tu hai registrato male e fai questo travaglio. E su nulla, un ciclo su design, questo responsabile, questo Matteo Marco, Gigi Marco, così nara a me questo. Ma ti dico, Leo, il CD era un CD di un gioco, 25 euro, no? 25 euro, ma che abbiamo fatto pagare lei a Media World? Ah, Sabine, tu hai ricordato lei a Media World a fare questo travaglio del salvente, mi ha donato un nome ne manno, sa matessi cosa dentro il vostro culo, ma buona, io non sono lui, io sono una persona che a te ti fa il culo così, la buona, ma di faccia a me, è muto, è diventato bianco visionie, come ti dico io, già lì si è quello di mettere un destro che lei che te la guardavano, e cane con la frana della fanno, ma che cazzo c'è questa garanzia, appena che tenete, lo dico per un cane in due, se cane lo cambia, coglione, cazzo di al male toccato che non è fatto, lo sbaglio, lo sbaglio, ma cassa che sono in tre ore, No, lei ha preso passaggio, quindi si è contrino tutto, non andrebbe garanzia. La parola, visto che lei è così intelligente, che capisce tutto, la parola, mi dica perché ci sono 90 giorni di garanzia, oltre che c'è una legge del 25 marzo, del 2002, mi spieghi che tutela l'apponato delle garanzie, mi spieghi qual è l'articolo, visto che è così bravo. Io so solo che dopo 8 giorni lo cambiamo, poi non lo cambiamo, ma allora 90 giorni di garanzia, su cosa sono? Mi spieghi su che cosa sono? Allora, l'apponato dopo 8 giorni è per il diritto di ripensamento e se il CD risulta difettoso appunto oppure ha dei problemi in tutti i sensi, ma dei problemi innati. 90 giorni se si scopre che il software appunto in un certo qual modo tende a difettare, perché questo è un problema software. Poi mi dai resenato un tipo della Raulas, va bene, no? la puoi mirare in un altro modo, però era una cosa, media world deve ne morre, tanto deve morre, primo suo direttore, cago su questi occhiali che sono imbecille, che sono un cagato, vecchio, poi deve morre, questo vaggio che c'è dentro, questo deve morre di sicuro, poi questo vaggio buttana, perché le hanno simbolato il suo controsello, ad aggrivina giosso, poi se non la facciaglia, il mondo che si pizzica in terra, male toccata, secondo vicino di Corello, accusendolo, l'hai graffiato tu, a parte che con la cattola da barra, mi giovanotto, o lì. La che l'ha graffiato lui, l'apparato tuo, l'apparato è la testa graffiata, dentro il cervello, tu l'apparato sei contorto e stupido, cazzo maleducato, a cos'è il tuo doppiaggio? Bello, a cos'è il figlio mio? Quando mi sono sicuro da ganno, non so, ma non mai l'ho messo così, e fu vero, mi volevano l'apposto, l'apposto quando mi sono, cioè mi stesso no, ha comprato ai 3 mesi, 4 mesi, cioè, quindi, non fa nulla, candidato te lo dico, difettoso, basta però di un'altra stesso, personalmente, però, ricordare, cos'è il mio figlio, l'hai graffiato tu, capito? Prima di tutto non ti rivolgere a mio figlio, rivolgiti a me, innanzitutto, no? Capito? Perché tu non sei il padre sono io. Casomai se hai qualche problema, tu ti devi rivolgere a tuo padre, se non ne hai ti faccio io da padre, non c'è problema, l'apponato, figlio mio, quindi uomo rispondimi, l'apponato, impiegami voi che non è raffiato, e in più, l'apponato, lei ha sarraccio e non continua, impiegami tu che sei intelligente, è graffiato, per quello che non riesce a proseguire, senti, non mi rompe, l'apponato, sono i bit che non sono correlati, punto, non comprendi un cazzo, ma senti, tu non ne capisci niente, l'apponato, lo più vuoi. Quindi io me ne sto andando, poi ti faccio perdere 10, 100, 1000 clienti, la monata, e già abbiamo fatto. No, ma non sono preso, visto probabilmente ma non interesso, no, stavo ripetendo. No, ma io mi sono andato, ma figurati, mi l'ha parlato qua, mi farò sentire, non ti preoccupare, no? Stai tranquillo, non ti lascio senza accontentarti, faccia quello che vuole, benissimo, e verrà. Compresso, come ti chiedo sì, dai, la caccia per cominciare a bestemmiare quello che ti caccia a paia, a me non entra la ragione di questa bestia, a me non può cambiare di cosa. Come faccio, a me la sorgente la sende. L'apponato, forse però mi fermare si entrava, l'apponato mi ha fatto caso in imbecille, grazie maleducato questo vaggio. Questo bucalotto di me che ti lascia partito, cazzo, cosa la faccia sul bancone. Grazie miserabile, cazzo. Vattene giù l'imbecille, sei tutto danzo, no? Cazzo di colore se non buco, Apponato, chi cosa tappano, non si fasciano e sarà moliente, sono macchinario che te lo pone le mani sul pacco, ma io non pretendo mela, uno paga educazione, no? Niente bessiglio, io sono messo a chiedere, siccome te lo so morbido, no? E io sono messo in nulla, comprei. Poi cominciano a diventare facce bianca, poi qualche tesore, ad accappare quelle assurdiste, lo sai con una mano, uno che lo paga ascia, ragazzo, si è cagato, no? Allora non si chiude quello da ciaffo, voi magari è capace che non so io cosa ciappano in tesina di lui, in via lo volvo, in fontana di lo volvo, io e me. E voi che cosa gatta sono so, io sono compreso. Cazzo, un grande maleducato, tutto mi riavorda delle revo, compreso. Non ti cambiano nulla, no, non cambiano nulla, compreso, sono infaulato, sono i corsese così avvente, sono un branco maleducato, sono tutto le vende, ma la tre bagassetta, secondaggi, rendo in tondo, che sono in macca che lelle, compreso, che noi ci manca che il mondo vive, né? Che pensano che io trucco a me mica vente, no, pensa che io ho detto il terminale su Bordi che è incasciato in gola e ogni tanto ho fatto un ganso. E sa pensa che io rovai, no, invece no, mi l'ha piegato, senta, abbandono voglia di discutere con una persona come lei perché manco mi abbasso, mi l'ha parlato direttamente come faccio, perché lei non si sa manco lasciare le scarpe la mattina, mi ha lasciato male, lei non si sa lasciare manco le scarpe, quindi per cortesia lasci perdere, non diciamo stupidaggini, ci dia rifettoso, punto e basta, io me ne sto andando, lei non ha fatto il suo dovere, di conseguenza avrà una cattiva pubblicità, io sono bigrede come non so bene. Tu vuoi disintegrare a uno, che fa che sono pubblicità da male, e adesso appunto, e fai i suoi cose, e noi sapremo ossa che mi lo fa, che ne? Questa non sapremo ossa, ma fottiti in altra occasione, l'altra possibilità, no, come qui è Tomano, cazzo, no, no, mi riavordo deve fare la cotta, se non lo vedo, deve fare la migotta, come di puttano, cazzo, in nome dei clienti, è da po' regione questa ossa. Subito in una che la caffè è tutto, ma quando avevo prima d'otto non ti permetta però di ricaricare per una sinus un po' di elettro tronco, oddio, cazzo! Vai che non è graffiato niente, non c'è niente graffiato, lui ha visto, allora, i CD quando te li danno di solito sono puliti, e ha visto le righe non longitudinali, ma le trasversali, sono sottili sottili che non c'entra niente, che quando sono così, che sono in quell'ordine, non c'entrano nulla con il senso di incisione dei pit, tutto una puttana da chinare, se poi non si viene nemmanco, cioè lui con la sua testa ha ricreato dei graffi che non c'erano, si è appunato, ma è Tesnellezella, c'ha me là, giovanotto, e se uno si scende, ha rovinato lui, torra, ma noi non lo comprendiamo. Me l'ha piegato, quando è graffiato, non prende traccia, ma lo vuol prendere, roncone, e lo devo raiala. Non proseguo perché c'è il graffio, ma non ho preso nulla, inizia, arriva a un certo punto, se inizia arriva a un certo punto, guarda se in centro che ci dici sono graffio, poi non c'è niente, qui non c'è niente, il pit rifettoso è il software come è stato masterizzato, come te lo leano da una madre, non le paghe ne meda, boh, difettoso, punto, nulla, mi l'ha piegato, in tutto sommodo. Guardi, se poi andiamo anche da persone competenti, qualcuno lo conosco, no, che no, ci muoviamo, non facciamo niente, ma non mi chiami la responsabile, parliamo del direttore, il suo direttore si è messo forse, no? Il suo occhiale, con quel gioco in quello gorilla, e si è portato il suo occhiale polso, a me il capo gli ha preso la fissa, dai dando, e tanto mi ha fatto questa puttanata, ma che se l'hanno a venire, il suo passo, ma che il suo non è responsabile. Perfetto, va bene, aspettandole, ma tagliami le volte. No, non se ne frega del 9, no. Io ho fatto pagare adesso, ho compreso. Però se ho compreso è proprio una pubblicità negativa, fatta il fascio come te la faceva, frullanatura, no? Cioè ammessatura, male, è meraviglioso, no? Mi costo 24 euro, sono di capovriato, sono di gimbe in fune. Compreso, scuso, casuale, canzone 24 euro, 2700 clienti per intendere, minimo, compreso, minimo, e so portami la pagana, casuale, un branco imbecille, in questo luogo, il terminotto non lo so che no? E poi, dato che sono amico mio, se senti mi conosco, non mi darò a piegare, comprendente? Allora così dai a sempre, e allora mi lavoro, compro, come invece no, mi stoppo, altro luogo, non so che riesco a lavorare, dico così, cartoppa ne cheres, come cosa start, già di cose già che mandare, a un andare, a pagare, compreso, so le cose, lo desio, lo fatto all'oso, però mi dia ordine, mi dispiace, ma dai a mie, più su nulla, quindi su cliente, si mi chiede a mandare, non metterò mamme su già per celle. Compreso, se io sono fatto un contratto con un'azienda che questa azienda in pratica mi ha dato sotto costo e le sono andato sotto che mi si accoppia, però non ti garanto nulla. E io sono accettato e la trovo di seguito, devo sapere che mi sono trovato di seguito, 2800, no? Tu pensa che io sono un attimo cambiato, ma assolutissimamente. Compreso, questo 2700 dico che lo montene le, che ha la cosa trombata. Però io sono compreso che questo 2700 cliente, se fa che non usa grassa di niente, questo è un fiume in piena, che non si fa che gaia sta gente. Sicuramente sono un branco maleducato, le gente stupida, incompetente, ignorante, buzzurra, deficiente, cretina, poi anche su malo soleo, pensa tu e arrivi di puro a indicare, se vuol dire un vicino che si innocente, no? È già fortunato che non metterà a staccare in culo e usare Media World, è già fortunato, no? Che non ha potuto non piccolo della faccia, capita da voi che non masellare, guardare, no? Poi, ma sono perde, no? Capita da voi se si ricorda. Quindi, non fa che casino, l'ha ponato un matto per aula, bene nada, e mica sono andato. L'ha piantato come un somaro, perché un somaro, un bardotto, perché un bardotto, salto, bardotto. E mica sono andato, finita, l'ha passato un commento e un aino. Però Media World, secondo me, deve morre tutto quanto, in trenie a una fascia. Io ma se mi mette a bordo, cazzo, da che dici che racconta una conca? Che se vedo dalle palle? Sono uscito da 8 anni, ho fatto che Napoli è viato, c'è una tromba, cosa ha pagato di secondario, amico mio? Su madre, la cassa di si compra bene, infatti su vai media world, sono preso, sono allucinante, se che mi stoppo ne farà un fumo, voglio fare una valutazione del dico di Brescia, che ne dico la seconda mano a buon Brescia. GameStop, convinto in casa loro, no, città mercato, di fronte a Bricco, appena appena venuto più cutale McDonald's. Una secondaria, compresso, lascia tranquillo. Arreo di tanta potenza che si barriere. Lascia tranquillo, ma denaro che venga a dire che si deve a me, ma dedotto, dedotte, fisono, se vedete, la può ripiegare la cosa, sì, gentilissimo, ripiegare, ma la garanzia, ma nato, quando un disco non gira, non gira, ma, cioè, è inutile stare lì al cliente a comprare la scatola, se lo porti qui te lo cambio, anche dopo gli 8 giorni, se, naturalmente che non ci sia un solco, e beh, andiamo giù così, no, ma se te non ha bloccato, che il buono è sull'efficienza immaginaria, che mentre sull'efficienza immaginaria, su mano non so bene. Comente? Una bella provata a vivere, ma non ha niente, questo CD non è graffiato nulla, compreso il rosso. Si dice che non te le dicano fesserie, ma mi ha fatto vivere un nuovo, mi ha avuto appena mezz'ora che lo vedono vicino, guarda, dice, vedi, queste specie di graffietti che lui dice, ci sono anche dei nuovi, non c'entra niente. Ma oh, guarda, io lo so benissimo, so quello che dico, perlomeno, ma al limite delle mie possibilità lo so, però sicuramente non è sano di mente, avete le bestie di questo tipo, mentre c'è lì un gestore, no? Il suo Rambo, e fuori giocando me da conmigo, compreso. Mi ha copiato in faccia, compreso, è ghiacciato. Fondamentalmente, ma poi ghiacciato, guarda, avete le ore subito, hanno grabbato uno che si è fatto la girata, mi ha messo subito, no? Nulla, perché dobbiamo far comprendere che invece era ballato in terra di questa storia. Sto comando a fanculo, ma non posso fare la roba, perché la comando a fanculo, ma lasci perdere, non dica stupidaggini, non continui, non mi prenda per il culo, tampoco mi l'ha polerato, a boga, non mi prenda per il culo, non dica cazzate, ci viene rifettoso, punto e basta, bene, non ci rivediamo più e vi farò un sacco di casino, sono venuto vicino a me, non uso manco una legna, non lasciatelo. Sardegna è una regione autonoma, è una regione dichiarata statuto speciale. quando attaccano il porcino, a chi più ne ha più ne metta, è lo servino dell'Italia, lo sgabello dell'Italia, non serve a niente. Praticamente qui vedi come ti trattano, perché non c'è un controllo, non c'è un ordine, non c'è un sistema. Altrimenti, se ci fosse stato un ordine vero e proprio, io cosa avrei fatto con quel CD? Potevo anche andare ad un avvocato, io l'avrei messa dietro, l'avrei messa anteriormente e posteriormente. I due canali li avrei visitato, non per essere volgare, ma capito, nulla, ho lasciato perdere perché avere una causa costa 10 volte il CD o 30 volte il CD all'inizio e poi te ne costa altrettanto. Però è un casino, si verrà preso in un luogo dedicato, a forse che sarà bene nelle cause, e poi avrei preso il disco, l'avrei portato, che ne so, associazione XY, no? Che la giunta è con Dai, con tutta la giunta è nera, non dobbiamo compiere su di con noi, se non sa causa l'abbiamo noi, se adesso mi chiede maritato su di con noi, invece voi non sei protetto, non ti tutela nessuno, qualsiasi cosa fa che non andrà bene, tanto ti inculano. Compresso, la risposta di quella cosa. Se invece uno è che unisce un educato, come te si tocca, risolve questa cosa, se va più cliente, se ti piatti idee dei clienti, se ma non ho valore, no? Io per esempio mi ha fatto questa cosa, che era un caspita, però sono veramente in gamba, e che ne ha aiutato 20. Invece come che devo giugare, no ai miei, no, ha fatto il negozio, 2 mesi e kimbe, e su Bahara. Che se mi scrivo da fuori frequenza, dicami. Dicami, che è giusto, mi intende? Boh, va là, prende. Che giù su caffè assai, no? Per partire. che o pagano nulla o cacca. Non fai nulla con te, fai che sei tutto a punto con le asse. No, fai che proprio nulla. Sei lapponato, buon CD, non manda che fai di cambiare il CD, a te ti pagano che attrezzatura, ma ti chiedo in conca, compreso. La sapere che le casente in giro vi fa che sacco, di lapponato non capisco più rispetto, non capisco l'umanità, c'è gente che vende le vigliacca e boh. Compreso bene, l'hanno facciato su attrezzatura che non ci sono niente. Apponato, si attaccano un CD, figurati se non si attaccano a questa attrezzatura. Su chi era Bisogas? Tore, Bisogas, sui tipi Hager, non ti pagano nulla, ma te paga, te vuole sul legale, ma te paga, ma vuole che si vuole di Sanurica. Metti cude, pagito, mette vaga, ma devo pure come mi comincia se chi si vuole conca, compreso. Ma un po' faticato questo perché sentagli in media world e tu hai cude se lo pagito. Ma puoi piacere, ma finindella, che c'è mano su di mano, dottore. Ragioniamo da cristiani e non da bestie. Ti rappanato il e le cude a punta faccia uno, sicuramente. Compreso. Corso è garantito che mi metto tra fare, allora il gaio, però è che fai, se non fai che ti abbia questa vedere che non so dove. Di affrontare la causa, sicuramente una bella denuncia gli fa che bene, compreso. Lei impara a rispettare la cosa sul sattero. No, no, ma Tore, di Lapponato, bambinissima gente che si appara a fare conca, no? Che non comprende una cosa, in una cosa ne comprende un'altra, compreso, che non sono più sacrificando questa conca, no? Sa di primo parmesano, poi sono malaito, non si comprende, no? Devo, infatti, boh, non comprendo più il suo comportamento, questa gente, questa verità, no, non lo comprendo, no. Vari andare a mandare a ferro, sono i birbetti, cosa trioxidotti, con tutto. Thank you. non ripeto questa cosa minore, non ripeto manco questa cosa manna, ma tu pensa sa, che gusto so, se c'è una cosa più minore non li faccia, li facciamo noi stessi, su i voglione, compreso, su i voglione, quindi lo fa che ne. Lo fa che ne vuole il petto, lo fa che ne caso mi è impazzito, lo fa che ne caso mi è educato, lo fa che ne caso mi vandalo, lo fa che ne caso mi geloso questa cosa so sattero, so. Lo fa che ne mille motivo, lo fa che ne, e te andas a minare, e conissimo come ti si comporta. Là. Tu puoi fare tutto ciò che fa ieri, puoi fare tutto ciò che ieri, che questo non lo cambierà mai, compreso. A meno che non che lo ponga sotto con un dato di cingolato, lo massica bene, perché sono via pane bulline, però se seguo con un rullo devo soppressore, lo pone sotto l'asfalto e lo pone in ricella come te fa che non sa starno. Qui giace il suo nodo, qui giace il vitellone, gai.